Buongiorno ragazzi, benvenuti. Grazie mille, ben arrivati. Mi chiamo Anna Ciec, ho 58 anni e sono di Folgaria e da tantissimi anni mi occupo di turismo. Dal 2009 ho creato questa azienda che si chiama Treventure Trentino Eventi Turismo. Quindi questi sono gli ambiti, le aree di cui mi occupo. Vivo a Folgaria e lavoro qui, però poi mi sposto in tutto il Trentino e non solo, anche a livello nazionale nell'organizzazione degli eventi. Io sono la titolare, siamo due soci e poi abbiamo tutta una serie di collaboratori. Come hai iniziato la tua attività? Ho iniziato la mia attività da giovanissima nel mondo del turismo, dove ho fatto tantissime esperienze anche all'azienda per il turismo e al consorzio Folgaria Vacanze tantissimi anni fa, e nel 2009 ho deciso di mettermi in proprio perché era un po' un sogno proprio quello di avere un qualcosa di mio e di poter esprimere al meglio la mia così anche indole relazionale a livello di ospitalità. Ecco, è una grande passione che avevo e quindi sono stata spinta, diciamo motivata a mettermi in gioco, ecco. Cosa significa aprire questo tipo di attività essendo donna a Folgaria? Essere un'imprenditrice con la responsabilità di un'azienda è molto molto impegnativo, soprattutto nella gestione della famiglia, dei figli, ho due figli. Quando erano piccoli, per fortuna, c'era la mia mamma, c'erano le nonne, perché voi siete più fortunati, adesso c'è l'asilo nido, una volta non c'era. Quindi ho dovuto veramente conciliare un'attività professionale molto impegnativa con impegni familiari. Tenete conto che nel mondo del turismo e degli eventi nel quale opero, peraltro, tanto tempo è impegnato, è impiegato nei fine settimana, quindi sabato e domenica e addirittura anche le sere, perché quando organizziamo gli eventi ci sono anche tante serate, per cui impegno doppio. Quindi dal punto di vista dell'impegno sicuramente è importante. Dal punto di vista invece di genere, devo dire che gli stereotipi, insomma, sì, ci sono, esistono ancora. Una donna comunque è vista ancora come un soggetto più debole, più fragile, mentre al contrario nel mio settore credo che le donne abbiano una marcia in più, perché c'è una sensibilità diversa, secondo me, da parte della donna nel mondo dell'ospitalità e del turismo. Essere donna è molto più difficile perché comunque c'è un mondo maschile che deve ancora, una mentalità che deve ancora molto progredire, insomma. Negli anni questa cosa l'ho anche un po' vissuta, sicuramente. Quali sono state le aspettative? Le aspettative quando ho aperto nel 2009 questa azienda sicuramente, allora, erano alte perché sono partita molto carica. Chi si mette in gioco, una donna che decide di aprire un'azienda, sicuramente deve essere fortemente motivata. Era un po', mi sono posta degli obiettivi, sicuramente, perché senza gli obiettivi non puoi progettare nulla. E le aspettative, peraltro, ho cercato poi di raggiungerle uscendo anche dal territorio di Folgaria e dell'ambito in cui ho aperto, perché l'ufficio ce l'abbiamo qui, però noi organizziamo eventi e ci occupiamo di turismo a livello sia provinciale, regionale che anche nazionale. Devi avere delle aspettative alte, un po' ricorrere un sogno, quindi La montagna sognata è proprio un titolo che mi si addice molto, devo dire. Si vive di sogni? Si vive di sogni. Nella vita e in tutti i lavori sicuramente. Senza i sogni non si va da nessuna parte. Il sogno ti permette di avere l'obiettivo di trasformarlo in realtà. Se fai un lavoro che ti piace, che ami, e per me è così, sicuramente vivi quotidianamente di sogni. Quando tu sogni, soprattutto nel mondo degli eventi, devo dire, noi sogniamo già l'evento come dovrà divenire, come dovrà essere. E quando lo vedi realizzato così come l'hai pensato, è la realizzazione di un sogno. Quando eri piccola, qual era il suo sogno? Quando ero piccola, qual era il mio sogno? Questa è una bellissima domanda. In realtà io ero una ragazzina molto vivace, molto, insomma, molto, molto allegra, e questo mi ha sempre aiutato anche poi nelle relazioni, nell'affrontare le quotidianità, le cose anche impegnative e difficili che si presentano nella vita. Io non avevo un sogno a livello professionale, dico, di sicuro volevo farmi una famiglia, di sicuro volevo girare il mondo. Mi è sempre piaciuto molto esplorare, sono sempre stata molto curiosa. Attraverso questo lavoro ho potuto sicuramente conoscere tantissime persone, girare molto, soprattutto l'Italia, e mettermi in relazione con tante persone, operatori del settore del turismo che veramente, con i quali si confronta quotidianamente, e anche altre persone. Adesso che sogno ho, dal punto di vista personale, di vedere realizzati i miei figli. È il sogno più grande e più bello che possa avere una mamma, sicuramente. Dal punto di vista professionale, beh, diciamo che dopo questi 2 anni di Covid, che hanno penalizzato molto, molto, davvero tanto il nostro settore, sicuramente è quello di riprendere la quotidianità, i ritmi e il lavoro di prima, però con una consapevolezza diversa. Con la consapevolezza non solo nostra, mia, ma di tutti, e questo è, mi auguro, del mondo, delle persone, che nulla è scontato, e di lavorare tutti per migliorare le relazioni che sono state molto minate durante questi 2 anni, lo sappiamo bene. Poi, dal punto di vista mio personale, è quello di far crescere sempre di più questa azienda. Era un sogno già quello di uscire dal Trentino con degli eventi importanti, l'abbiamo raggiunto in particolare quest'anno proprio. Con degli eventi grossi a Cortina d'Ampezzo, oltre che in Alto Adige. Secondo lei manca qualcosa a Folgoria? Diciamo che nelle piccole realtà, dove si è vissuto per tanti anni di turismo, un turismo spontaneo, dove c'era veramente tanta, anche tanta ricchezza, no? Si è persa un po' in quegli anni la consapevolezza di rimanere tanto uniti e di progettare insieme il futuro della comunità a livello di territorio, di progettare il territorio tenendo conto delle necessità, delle esigenze delle varie fasce d'età. Per cambiare la cultura di un territorio bisogna parlare a livello trasversale. Le persone che guidano devono parlare tanto con le persone, fare tesoro dei loro consigli, ascoltare i bambini, perché voi avete delle necessità che sono diverse dai bambini di città. Si cambia attraverso l'ascolto. Un messaggio che vi voglio lasciare, che vi voglio lanciare, è quello di inseguire sempre i vostri sogni. Mettetecela tutta, senza farvi influenzare troppo dagli altri, dal pensiero delle altre persone, che non siano le persone più fidate vicino a voi, con i vostri genitori, eccetera, naturalmente. Esprimete sempre le vostre idee e rispettate sempre gli altri, perché allo stesso modo sarete rispettati anche voi. E poi tanta tenacia, coraggio e buttatevi. Non tiratevi indietro di fronte a tante opportunità per timore o per paura del giudizio. Voi lanciatevi, se avete delle passioni, coltivatele. Questo è il consiglio più che mi sento di darvi. Grazie. Grazie a voi. Grazie, complimenti a Grazie. tutti.